6A. Ascolta e rispondi. Vi siete riposati? Sì, ci siamo riposati un po'. Dove vi siete incontrati? Ci siamo incontrati al cinema. Quando vi siete sentiti per telefono? Ci siamo sentiti 2 giorni fa. Perché vi siete fermati in città? Ci siamo fermati in città per visitare il palazzo comunale. Che cosa vi siete messe? Ci siamo messe il cappotto. In cosa vi siete laureate? Ci siamo laureate in economia. A che ora vi siete viste? Ci siamo viste a mezzogiorno. Di cosa vi siete spaventate? Ci siamo spaventate del rumore.